saluto a tutti. Dica. Deborina e Nicoletta. Dottor Verdone, non è una mia dichiarazione d'amore al suo indirizzo. Ciao a tutti, a Deborah domani. Deborah si sta strozzando, no, ma domani bene, torna, grazie. Quelli... esame all'università, spesso abbiamo no disturbi intestinali, sì, che sembrano... la cagarella da esame, no, insomma, dai, si può dai, dire, dai. No? Bravo, raccogliete le cacche. Lo diciamo di nuovo, raccogliete le cacche. Cuore e denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Con un poco di zucchero la pila va giù. Non sappiamo se ci sta un po' indorando, come si dice, la pillola, se davvero si tratta di novità interessanti. Noi per il momento, cara la mia bella Deborah, il nuovo governo, a nostro modo, lo stiamo osservando e studiando, l'abbiamo già fatto con diverse puntate a Cuore Denari. Soprattutto stiamo analizzando tutti i temi di interesse a marchio Cuore Denari, no? Diciamo così. Assolutamente. Ci sono gli 80 euro in più che molti lavoratori aspettano a maggio in busta paga, c'è il Jobs Act per riformare il mondo del lavoro, tante altre cose, la riforma elettorale, l'abolizione del Senato, ben vengano tutte queste novità, e sono tante quelle di cui si parla, ma ce n'è una che proprio non sembra andare giù a molti italiani, e mi riferisco alla tassazione delle rendite finanziarie, quindi una tassazione sul nostro risparmio. Nicoletta, per chi investe il suo piccolo grande risparmio, un po' te lo ricorderai come abbiamo fatto fare a te a inizio, certo, Cuore e Denari, no? Ad ottobre, le tasse su ciò che si guadagna, sui frutti di questo investimento, diventano tutte un po' più pesanti. Questo temuto scatto è previsto per luglio e i risparmiatori non la stanno prendendo bene, stanno martellando di domande tutti i consulenti finanziari, e fra questi c'è anche il nostro maestro. Lo vuoi presentare il tu? Il mio maestro. Certo, il nostro professore Gianni Lupotto, che salutiamo, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, ben ritrovati. Professore, come stanno i miei denari? Direi che stanno andando molto bene. L'investimento che avevamo iniziato a novembre sta dando i suoi frutti, sia ogni componente del portafoglio è positiva, come magari vedremo più avanti. Allora, non sveliamo tutto ai nostri ascoltatori, manteniamo ancora un'oretta di suspense, e quindi ci spiegherà meglio nella seconda parte della trasmissione. La nostra consueta scuola del risparmio del mercoledì è pronta e la stiamo frequentando in attesa di approdare al Salone del Risparmio mercoledì prossimo. Lupotto, insomma, ci spiegherà anche come dovrebbe impattare questo aumento delle tasse sul portafoglio di Nicoletta, ma due cifre, buttiamole subito sul tavolo, anticipiamo l'argomento ai nostri ascoltatori, poi facciamo bene i conti più tardi. A quanto ammonta questa temuta aliquota? Il progetto di aumentare l'aliquota attualmente al 20%, al 26% sulle rendite finanziarie, con esclusione dei titoli di Stato e mantenendo purtroppo anche la mini patrimoniale del 2 per 1000. Benissimo, allora 800 24 00 24, iniziate fin da ora a prenotare i vostri interventi, le vostre domande, vi daremo spazio dopo il GR delle 12. Siete grandi o piccoli risparmiatori? Sappiamo che in questo periodo già non è facile arrivare alla fine del mese, figuriamoci risparmiare per tante persone. Proprio per questo motivo molti tengono molto stretto quel poco o tanto che hanno messo da parte. Avete investito un gruzzolo? Sapete quanto pagherete di tasse su ciò che vi rende? Provate a calcolarlo, scrivetecelo, e se invece non vi è chiaro come funzionerà questo nuovo modello di tassazione, chiamateci al numero verde, perché siamo qui proprio per fare un po' di scuola anche su questo argomento. E su sei sempre il più, e giù sei un uomo in più, e su sei sempre tu, e giù non ci sei più. Abbiamo visto che queste novità per la tassazione delle rendite finanziarie non vanno giù a molti risparmiatori, anzi tornano un po' su, proprio come succede con il reflusso gastroesofageo. D'altronde, a chi non è capitato di provare questa sensazione, che è abbastanza sgradevole, magari subito dopo mangiato, quando ci troviamo in posizione supina, oppure di avvertire un bruciorino di stomaco, una certa acidità? La frequenza del disturbo è una variabile importante, lo sappiamo bene tutti che una rondine non fa primavera, ma a volte, anche in presenza di sintomi quasi quotidiani, si tende un po' a sottovalutare il problema, a rimandare, a gestirlo da sé, magari cambiando un po' le abitudini, la dieta, chiedendo all'amico, assumendo il farmaco che magari all'amico o al collega ha fatto bene. Allora, forse a questo punto conviene saperne qualcosa di più per imparare a distinguere le situazioni fisiologiche, quindi normali e innocenti, da quelle che dovrebbero metterci un po' sul, così, sul desiderio di andare a capirne qualcosa di più. Diciamo, tra virgolette, lo mettiamo patologiche, ma non vogliamo arrivare a questo. Allora, sentiamo subito la nostra scheda che oggi abbiamo preparato utilizzando, pensate, un questionario che è stato ideato da un gruppo di ricercatori americani. Si chiama Richter Scale Acid Test e permette di capire se il reflusso gastroesofageo potrebbe essere uno dei problemi che è alla base di quella strana sensazione di malessere che possiamo avvertire in determinate situazioni nel corso della giornata. Naturalmente il test non basta da solo a fare diagnosi, lo sottolineiamo bene in rosso, c'è bisogno di un medico e noi oggi abbiamo il piacere di avere in linea un grandissimo medico, il professor Dino Vaira, professore di medicina interna al Sant'Orsola di Bologna. Professore, buongiorno. Buongiorno a voi, ben ritrovati. Le presento anche la mia amica Debora. Buongiorno, dottore. Tanto piacere. Anche da parte mia. Professore, noi abbiamo pensato, per orientarci un po', di utilizzare questo questionario. Lei che dice? Abbiamo avuto una buona idea? Ci aiuta? Good idea, come direbbero i miei amici anglosassoni. Very good idea. Allora andiamo a sentirlo. Hai un senso di fastidio dietro lo sterno? Come se qualcosa risalisse dallo stomaco? Senti bruciore in fondo alla gola? O una sensazione di amaro o acido in bocca? Questi sintomi si presentano spesso dopo pranzo? Ti capita di soffrire di bruciore di stomaco due o più volte a settimana? Hai l'impressione che gli antiacidi diano solo un sollievo momentaneo ai sintomi? Stai prendendo un farmaco per il bruciore di stomaco, ma i sintomi non passano? Allora, se avete risposto sì a due o più domande, potreste, e metto il condizionale, soffrire di reflusso gastroesofageo. Per avere una diagnosi certa, naturalmente è indispensabile rivolgersi al proprio medico, ma nel frattempo potete chiamare l'800 24 00 24 e approfittare dei consigli del professor Dino Vaira, che è in linea con noi. Professore, partiamo dal nome, reflusso gastroesofageo. Il nome la dice lunga sui sintomi di questa malattia che conosciamo bene ormai per esperienza diretta o indiretta, dato che interessa almeno un italiano su due. Reflusso fa proprio riferimento ad un ritorno, in questo caso una risalita del cibo, mentre l'aggettivo gastroesofageo indica bene il punto in cui si localizza il disturbo. Il cibo infatti torna su dallo stomaco e risale nell'esofago. Tutto qui, verrebbe da dire. Invece la situazione è molto più complessa, perché accanto ai sintomi classici che sono acidità, bruciore, rigurgito, ce ne sono altri che con l'esofago e con il cibo sembrano non aver nulla a che vedere, per questo si chiamano atipici. Voglio citarne alcuni: dolore al torace, la tosse, la raucedine, il fastidio nella deglutizione, ma anche le gengivite, l'afte e anche lo smalto dei denti che inizia così a perdere un po', come si dice, smalto. Professor Vaira, è una brutta bestia, insomma. E poi intanto, sembra che sia intanto la promuovo e lei ufficialmente fa parte del corso di laurea in medicina e chirurgia, perché fa tutto sul reflusso. Me la laurea qua sul campo? Un bel prende l'ode, se lo merita. Ecco, questo intanto per iniziare. In realtà lei ha detto quasi tutto, l'unica cosa che dobbiamo aggiungere per chi ci ascolta è come se avessimo un piccolo draghetto dentro il nostro stomaco che sputa fuoco. E questo fuoco lo sputa, come giustamente diceva lei, nell'esofago. L'esofago è il tubicino che collega la bocca allo stomaco e purtroppo per noi è stato fatto da chi ovviamente ne capisce molto più di noi, quindi all'incirca 2000 anni fa, come un viscere di trasporto. Cosa voglio dire? Che la mucosa dell'esofago è veramente integra, come, mi perdoni la metafora, il sederino di un neonato. Cosa voglio dire? Voglio dire che non è adatta a metabolizzare o a digerire, ma fondamentalmente funge da transito. Perché le dico questo? Perché basta uno sbuffettino di quel famoso fuoco delle fiamme del draghetto, nel nostro caso dell'acido, irrita in maniera elettrica, mi passi il termine, questo povero viscere che l'esofago, e che giustamente, come diceva lei, ci dà dei sintomi atipici maledetti come il dolore toracico. La gente pensa veramente di avere un infarto, corre al pronto soccorso e ringraziando il cielo non è un infarto, oppure c'è l'asma allergico, oppure perde la voce. Tutti i cantanti del mondo, la Katia Ricciarelli, che ho avuto il piacere di conoscere all'epoca di Sir, diceva che aveva un problema maledetto perché questo reflusso le toglieva la voce. Quindi quello che lei dice è assolutamente giusto. Possiamo, professor Vaira, io sì. Sono la donna di denari, mi voglio guadagnare sul campo, non ho la laurea, ma almeno mi dia un diplomino stamattina se le faccio delle belle domande. No, mi piacerebbe capire, visto che io amo un po' schematizzare, se esistono delle tipologie, c'è chi soffre sempre di un problema di questo tipo o chi per esempio ne può soffrire saltuariamente. È possibile individuare appunto uno schema di... C'è uno studio recentissimo su più di 1000 pazienti che viene dalla California, dalla Oklahoma, che dice che chi purtroppo è sovrappeso ha un'altissima possibilità di reflusso, e dopo il reflusso, in pratica quando noi parliamo di reflusso significa di alterata malfunzionamento della valvola, perché questo è il problema vero, cioè alla fine dell'esofago noi abbiamo questa meravigliosa valvolina che chiude quando ha fatto passare il cibo, nella fattispecie siamo a Bologna, il tortellino. Quindi il tortellino, una volta che è passato dall'esofago, deve rimanere nello stomaco, deve essere amalgamato e deve essere, passatemi il termine, sputato nell'intestino. Se questo tortellino semi-amalgamato torna su perché questa valvola non funziona, succede un patatrac, e questo per esempio succede in maniera esponenzialmente più alta in chi è in sovrappeso. Abbiamo i nostri ascoltatori che ci stanno chiamando al numero verde 800 24 00 24 per avere delle spiegazioni dal professor Vaira, ma immagino anche dei consigli, dei pareri. Non facciamo diagnosi, ma sicuramente gli esperti di Cuore Denari ci aiutano a capire meglio la situazione e quindi diventare, per quanto riguarda sia la salute che i nostri risparmi, protagonisti attivi. Un po' di orientamento, diciamo. Giuseppe, buongiorno da Milano, benvenuto. Pronto, salve, buongiorno. Buongiorno. Io avrei appunto delle domande per il professore. Ho 33 anni, 3 anni soffro di reflusso gastroesofageo, sì, che ho scoperto tramite delle aritmie al cuore subito dopo pranzo e dopo cena, e facendo una gastroscopia ho visto che avevo un'ernia iatale. E adesso come va? Sì, da allora sono sotto farmaci quotidianamente. Però avendo parlato con diverse persone, anche medici, mi hanno dato ognuno una tipologia di approccio diverso alla patologia. Chi appunto l'omeopata di trattare questo con una dieta particolare, con farmaci omeopatici, l'osteopata facendo delle sedute particolari perché il mio reflusso gastroesofageo è dovuto a una sbagliata postura negli anni passati, e ovviamente il gastroenterologo continuando la terapia farmacologica classica. Guardi, Giuseppe, lei è stato meraviglioso, perché professor Vaira, Giuseppe ha descritto una situazione molto frequente. Più uno sente pareri, certo, più non sa dove orientarsi. A seconda dello specialista a cui si rivolge, ovviamente. E quindi qua l'orientamento lo vogliamo chiedere a lei. Ma poi Giuseppe ha scoperto di avere il reflusso gastroesofageo per un senso che sembra che no, sintomi che non possiamo collegare direttamente al nostro esofago, al nostro stomaco, le aritmie. Quindi ritorna di nuovo la descrizione di una patologia che è molto subdola. Professor Vaira. Allora, iniziamo col dire che, giusto per non saperne leggere e scrivere, ma ovviamente perché io non sono di parte, ha ragione il gastroenterologo. Ovviamente. Non è per niente in conflitto di interessi, mettiamola in certo. Stavo facendo la battuta per i nostri ascoltatori. Allora, seriamente parlando, l'impostazione corretta è la seguente. Innanzitutto, la malattia del reflusso gastroesofageo è una malattia che viene diagnosticata dal medico di base addirittura, perché il sintomo è così alto come frequenza e come tipicità, sì, che al 50% non abbiamo bisogno di fare una gastroscopia. Nel caso di Giuseppe, che in cui si è presentato con un sintomo atipico, giustissimamente hanno fatto una gastroscopia. Quindi cosa si deve fare? La prima cosa, ne abbiamo parlato con la grande Nicoletta altre volte, è cercare se nello stomaco c'è l'Helicobacter, indipendentemente dal fatto che ci sia reflusso o meno, perché questo è un ospite sgradito che va tirato via anche innanzitutto nei pazienti con reflusso gastroesofageo. Questa è la prima cosa. La seconda cosa, il nostro Giuseppe ci dice che c'è un'ernia natale. Bene, questa è una patologia che pian pianino può essere risolta, specialmente alla sua età. La cosa che non ci ha detto Giuseppe, che è fondamentale, a parte gli osteopati e gli omeopati, è il suo peso, perché in realtà il 50% dei reflussi gastroesofagei noi li trattiamo con una dieta, con un'attività fisica e con pochissimo farmaco. Quindi l'obiettivo nostro è alterare nel senso positivo la qualità di vita in modo da minimizzare questi noiosissimi, terribili effetti collaterali come quello che ci descriveva il nostro amico Giuseppe, cioè l'aritmia, che è una cosa antipaticissima, uno veramente si sente che il cuore non va per la sua strada e si sente mancare. Mm-hmm. E allora 800 24 00 24, siete davvero in tanti questa mattina, sentiremo adesso quanti più ascoltatori possibile, e diamo spazio a Dario dalla provincia di Viterbo, che identifica un'associazione tra determinati alimenti che mangia e così un po' questo problema che si manifesta in maniera un po' più forte in certi casi. Dario, buongiorno. Sì, buongiorno Deborah, sì. Una semplice domanda, io coltivo un orto in cui ho diverse verdure, cavoli, broccoli, insalate eccetera. Volevo soltanto chiedere una piccola domanda: è meglio mangiare verdure crude o cotte? Grazie. Ecco, grazie semplice. Dario. Professor Vaira, cotte o crude? Questa semplice domanda di Dario, a cui ho una semplice risposta: può mangiare le verdure cotte, crude, a maggior ragione se le coltiva lei, quindi sicuramente saranno genuine, se accompagnate a tanta acqua naturale, non gassata, non fredda, e quella del rubinetto, mi dispiace per i produttori di acqua minerale, va meravigliosamente bene. Quella a centimetro zero, come del dico sindaco, io, come del, la chiami tu? A chilometro quella, zero. Sì, direi millimetro, perché ce l'abbiamo proprio lì, a portata di mano. Il professor Vaira ha introdotto un altro tema di grande interesse per i nostri ascoltatori: soffrite di reflusso, qualche cosa non vi torna, andate a cercare l'Helicobacter. Di questo potremo naturalmente parlare anche nel corso della nostra trasmissione. Intanto, professor Vaira, non le sembra che questa malattia del reflusso sia diventata anche un po' troppo di moda? La prima raucedine, un po' di tossetta, uno smalto che non ha più smalto, ecco subito che no, ci si orienta verso il reflusso. Lei ha ragione, ma perché siamo diventati più attenti. Non è certo un caso che se lei viene nei nostri reparti di medicina interna qui a Sant'Orsola come a Milano, l'età media dei nostri ragazzi e delle nostre ragazze è 89 anni. Sì. Quindi questo vuol dire che in positivo e in negativo, né che se ne dica della sanità, evidentemente se la gente riesce a campare, a sopravvivere oltre gli 89 anni, vuol dire che un pizzichino di merito noi ce l'abbiamo. Quindi noi siamo più attenti, a parte gli scherzi, questo è il motivo per cui facciamo più diagnosi di malattie del reflusso gastroesofageo rispetto per esempio a quando mi sono laureato io, ma perché 30 anni fa la patologia predominante, come voi ricorderete, come sicuramente i nostri ascoltatori ricorderanno, era l'ulcera. Mm-hmm. Adesso abbiamo sconfitto letteralmente l'ulcera e c'è rimasto da sconfiggere. Qualcosa dovete, se no che cosa state a fare lì? Per l'amor di Dio. Ma professor Vaira, noi più tardi parleremo delle nuove tasse che andranno a rosicchiare ancora una volta il nostro risparmio. Questa è una situazione che sicuramente flusso, glielo dico ecco, subito. Quindi c'è relazione molto spesso fra fattori esterni della nostra vita quotidiana, riconducibile a condizioni di stress. Prima dicevamo mi fa venire l'ulcera, questa cosa adesso diciamo mi fa venire il reflusso. A parte gli scherzi è così. E meno male che c'è cuore denari che mette insieme temi che sembrano molto lontani e che invece sono intrecciati. Soldi e salute, tutti e due con la S viaggiano a braccetto. Non so se è un bene o un male, però di fatto ha portato il nostro direttore ad inventarsi questa trasmissione. Vabbè, detto questo, che facciamo? Andiamo a sentire i mercati. cuore e denari. È da diverso tempo che io, dopo mangiato, ho gli acidi, i bruciori di stomaco e anche qualche rotino. Tante cure ho fatto, sa, ma non mi hanno fatto bene nessuna. Sì, mamma, io non sono dottore. È lo stesso. Chissà che non possa fare qualche cosa anche lei, anche se non è un dottore. Io sono ingegnere. Fa lo stesso. Tante volte anche il parere di un ignorante va bene. Con questo male, con questo bruciolino di stomaco, non ho volontà di far niente. Dopo che ho mangiato, me ne sto lì come una mummia. E riprendiamo a parlare di reflusso gastroesofageo, lo facciamo non con un ingegnere ma con un medico, e un medico di altissimo profilo, il professor Dino Vaira, professore di medicina interna al Sant' Orsola di Bologna. Professor Vaira, abbiamo capito, potrebbe essere l'Helicobacter, e soprattutto a farci tornare su quello che dovrebbe stare giù è questa valvolina che non funziona a dovere. Il primo passo però solitamente spinge le persone a modificare in qualche modo la dieta. Le sembra una buona idea? Assolutamente sì. Infatti, le dicevo, non a caso questo studio che le ho citato poc'anzi della California citava esattamente questo, cioè le abitudini alimentari sono innanzitutto la cosa fondamentale per la malattia del reflusso gastroesofageo, quindi il farmaco viene sempre alla fine. Questo, adesso seriamente parlando, è il motivo per cui poi uno veramente si rivolge dall'omeopata, dall'iridologo o da qualunque sciamano del continente. Quindi la cosa che innanzitutto noi dobbiamo avere accortezza è nel modificare lo stile di vita. Che vuol dire? Mi dispiace, devo dare delle grandissime e bruttissime notizie. No. Non caffè, non cioccolata, non vino bianco, non arancia, non limone, non pepe, non peperoncino. In una sola parola, ridurre il proprio peso. E qua mi viene da dire, per fortuna, anche, che non abbiamo il reflusso, perché ci dirà anche però delle cose carine da prendere, no? Oltre che a vietarci il caffè, il cioccolato, gli agrumi, la menta. Pasta, carne sì, pesce sì, frutta sì, verdura sì, anche un po' di latticini. Quindi in realtà possiamo mangiare tutto. Bene. Perché no, un buon bicchiere di vino rosso, non frizzante. Tutto quello che è bollicina, e quindi senza far nomi, ma ovvio che si capisce da solo, ma dalla stessa acqua frizzante a qualunque bevanda gassata, certo, ci fa malissimo. A me dispiacerebbe il caffè, per il resto potrei anche sopportare la mancanza degli altri alimenti indicati dal professore. Andiamo a vedere se Carla e poi Elisabetta hanno modificato in qualche modo la loro dieta, o che cosa vogliono raccontarci. Magari hanno trovato un rimedio per evitare di provare questa sgradevole sensazione. Carla, buongiorno. Buongiorno. Niente, io volevo raccontare il mio problema. Io non so se dipende da questo disturbo. Comunque faccio fatica a deglutire, come se avessi del catarro in gola che non riesco a mandare via, come un filo. Sì. Mi succede durante il giorno, però lo sento meno, specialmente quando vado a letto che mi corico, mi strozza, perché io tento deglutire ma non mi va giù, è un filo. Professor Vaira, quanto vogliamo scommettere che Carla non beve abbastanza acqua? Carla, quanto beve lei in un giorno? Pochissimo, mi devo sforzare. Sono un grande medico, mi dispiace, sono un grande medico. Mi devo sforzare perché non sento la necessità di bere. Carla ha fondamentalmente le cellule che soffrono moltissimo, non hanno mai una vita felice, non fanno mai dei parti. Queste cellule che soffrono creano realmente questo tipo di disturbo. Certo, loro, come adesso dire, parliamo seriamente. Carla ha assolutamente bisogno di inumidirsi la gola con dei goccini d'acqua. La metafora è di una flebo, o voglio dire la goccia lenta. Deve bere un litro d'acqua, mi dispiace per Carla, dalle 8 alle 13 di mattina, piccolissimi sorsi. Più piccolo il sorso, più lei sta bene, meno minzione fa, la famosa plin plin, meglio è, perché vuol dire che l'acqua è entrata nelle cellule e le cellule possono finalmente fare i mega party con i nostri attori. E un altro litro d'acqua nel pomeriggio dalle 14 alle 19, gli orari, e c'è un motivo di questi orari, perché in modo che durante la notte la nostra Carla abbia un meraviglioso riposo. senza dover andare a fare plin plin. Carla, ci faccia sapere come va a finire, perché noi qua a questo punto Bella, mi piace questa proprio goccia dopo goccia, le cellule. A me è piaciuta soprattutto, sono un grande medico. È troppo forte il professor Vaira. Elisabetta, ecco, da Roma. Elisabetta, buongiorno. Ha un bel caso. Pronto? Pronto. Buongiorno. Lei beve? Elisabetta beve? No, io non chiamavo per un problema. No, ma mi dica se beve. Ma lei non beve? Era abbastanza. Abbastanza. Io mi rivolgevo a voi per avere così un chiarimento. Io sono una nonna di un bimbo di 2 mesi, il quale è nato benissimo, anche di buon peso, 4 kg circa. È bellissimo. Solo che ha un problema, che appunto è il reflusso, che è stato insomma subito diagnosticato. Esatto. E questo comporta che, effettuando un allattamento materno, cioè mia figlia, quindi chiaramente questo ha portato a una dieta da parte di mia figlia, le è stato consigliato di evitare tutto ciò che sono prodotti di vaccino, latte di vaccino e derivati, e quindi evitare anche il caffè, e questo allattamento però ovviamente richiede molta molta attenzione, molto tempo, certo. E in più il bimbo non può stare sdraiato completamente, deve stare sempre sollevato, e il problema si acuisce la notte, certo. Durante la... Professor Vaira, vogliamo dare un aiuto a questa nonna preoccupata e soprattutto parlare anche di questo disturbo che può colpire anche i piccinini, i neonati, i lattantini. I piccinini purtroppo soffrono di reflusso e lì non c'è, come dire, acqua che tenga, quindi non c'è un dubbio che il famoso rigurgitino, tutti noi lo sappiamo, chiunque ha avuto figli lo sa, è un fenomeno assolutamente ricorrente, quindi bisogna un attimino... come dire, ponderare questo reflusso, perché al 70% questi rigurgitini, come tutti noi sappiamo, sono parafisiologici, sì. Nel senso che il piccolino deve ancora svilupparsi, quindi basta una poppata vorace che inevitabilmente dà luogo al rigurgitino, al reflusso, ma quella non è una patologia, è legata solo al fatto che il piccolino o la piccolina deve ancora sviluppare il suo apparato gastroenterico. Quindi prima di medicalizzare questi piccolini, che veramente mi viene la pena al cuore medicalizzare dei piccolini, bisogna, come dire, avere un filo di accortezza e di buon senso, specialmente nell'alimentazione, prima di poi sentire il parere di un esperto, nella fattispecie il pediatra o così via. È giusto che la mamma abbia modificato la sua dieta? Di solito le mamme che allattano sono molto attente alla dieta, proprio per evitare che di assumere magari degli alimenti, dei cibi, professor Vaira, che possono in qualche modo dare fastidio al neonato, anche solamente perché correggono un po' il sapore del latte, penso. Professor Vaira, lei è d'accordo? Sì, però le ripeto, siamo ancora nell'ottica della parafisiologia, cioè cosa voglio dire? Su 1000 bimbi, 995 c'hanno il regurgitino e 5 c'hanno un vero e proprio reflusso. Sì. Queste quindi sono... bisogna che uno abbia questa coscienza a non medicalizzare i poveri piccolini. C'è Sante che ci scrive a cuore denari, sto monitorando le mail, visto che qua abbiamo allarmato un po' tutti sul caffè, noi ne siamo grandi consumatori, il caffè d'orzo va bene, professore? Ci si può fare col caffè d'orzo. Come, scusi? Ci si può fare la doccia. Ma ecco, poi diciamo il caffè. Benissimo, va benissimo. Il caffè. Scherzi, perché va benissimo? Perché è quella misto di acqua bollita con un filo di caffè che specialmente alle donne va meravigliosamente bene, per esempio sul pancino, su quella che voi chiamate la colite, sulla pancina gonfia, non sexy. Per esempio, lo dico seriamente, questo caffè, questa tazzona di caffè d'orzo sorseggiata durante il giorno è meravigliosa, lo dico seriamente, a parte gli scherzi. Mm-hmm. Cioè toglie e sgonfia anche un po' la pancia? Ripristina la peristalsi. Ritroviamo il girovita miracolosamente scomparso. Allora, caffè, limone, cioccolato, se uno non soffre di reflusso gastroesofageo può mangiarseli, certo. Professore, bene, ma assolutamente. Perché senza farci la doccia però. Perché un ascoltatore mi scrive: io mangio cioccolata, mangio arance, bevo limonate senza zucchero e mi sento benissimo anch'io. Ma qua stiamo caro parlando amico di chi ha una patologia, insomma, non di chi sta bene. Vogliamo sentire Michelangelo, che ci chiama da Messina, con questo bel nome, con questo nome. Buongiorno Michelangelo. Pronto, buongiorno. Buongiorno. Allora, io soffro di reflusso gastroesofageo, però non si tratta in realtà di acido che torna su, ma si tratta esattamente del cibo che ho appena ingurgitato che ritorna immediatamente in bocca. Quindi, professor Vaira, questo sì. È un brutto segno. Questo, per l'amor di Dio, bisogna che Michelangelo corra con la velocità della vita, della luce, a farsi vedere dal suo gastroenterologo. Il cibo che ritorna su sicuramente non è uno dei segni più belli del mondo. Quindi vuol dire che c'è un'incontinenza cardiale completa, che vuol dire che la valvola non tiene assolutamente, a punto tale da permettere al cibo ingerito di risalire quasi intatto. Questo, ecco, questo merita, è un campo. Merita di fare una esofagogastroscopia con la velocità della luce. Ecco, quindi invitiamo Michelangelo a consultare il gastroenterologo. Cuore Denari serve anche a questo, a individuare dei casi. A identificare bene sintomi differenti. Esatto, perché tante volte non ci rendiamo conto che quello che stiamo vivendo è una situazione un po' a rischio. Il nostro corpo ci manda dei segnali, spesso sono segnali per dirci tutto va bene, non ti preoccuparti, a volte si accende una lampadina rossa, ma noi dobbiamo avere la competenza per riconoscere il colore. Alessandro, dalla provincia di Como, buongiorno. No, buongiorno. Alessandro? Sì, buongiorno. Lei si è stoppata come me, perché io ho visto che avevamo sono un eccesso di entusiasmo sulle telefonate. 11.45, Alessandro? Andiamo a farci un giro a vedere un po' che situazione c'è sulle strade e le autostrade ci italiane. Ci faccia da cavaliere. Andiamo. Cuore e denari. E torniamo a parlare di reflusso, che non sempre è acido, verrebbe da dire, perché può essere tosse, dolore nella deglutizione, come abbiamo sentito dalla nostra ascoltatrice, senso di oppressione dolorosa al torace, ma anche gengivite, carie, infiammazioni della mucosa. Ci chiama Alessandro dalla provincia di Como, che ci ha fatto da cavaliere lungo nella parte dedicata al traffico. Alessandro, buongiorno. Buongiorno. Eccoci qua. Allora. Io non soffro di riflusso, lo soffre mio padre. E il mio dubbio è, ma si è portati oppure no? Può essere un discorso ereditario o non c'entra niente? Teme questo che prima o poi pizzichi anche lei, insomma, Antonio. Alessandro, lei... Alessandro, perché lo chiamato Alessandro, Antonio? Lei che stazza ha? Non voglio proprio chiederle direttamente no, quanto pesa. No, io sono, direi, mediamente in forma. Sono leggermente sovrappeso, ma dal mio punto di vista... e ho una vita sportiva, mangio sano, però beh, qualche vizio ce ma certo, insomma, ma certo caffè, cioccolato, ma non sono neanche bianco, vizi, ecco. Professor Vaira, ho chiesto il peso ad Alessandro, l'ho fatto un po', fatto bene? No, 30 lode. Vado, allora vedi un'altra lode. Alessandro, ci ha paura un po' di ritrovarsi a gestire questa situazione come sta facendo il suo papà. È ereditario in qualche modo il reflusso, questa valvolina che non si chiude? La risposta no, non è assolutamente ereditario, a parte gli scherzi. Quindi non è una cosa che noi ereditiamo dai nostri genitori. Intanto, professor Vaira, vogliamo dirle con Deborah che sta conquistando le ascoltatrici, ci scrivono più donne di uomini al 349-238-6666 e molte di queste dicono che oltre a essere chiaro, un bravo medico, ma è anche un gran simpaticone. Ecco, perché no, ma a parte aiuta... tutto questo mi interessa capire se statisticamente perché il reflusso è più diffuso tra le donne, professor Vaira. Prego? Il reflusso è più diffuso tra le donne la piuttosto che tra gli uomini? Sì, a parte gli scherzi. Il reflusso è collegato realmente a quello che noi chiamiamo la sindrome dell'intestino irritabile, che comunemente si chiama il colon irritabile, che significa fondamentalmente il pangino gonfio e quindi questa cattiva digestione, quindi questa sonnolenza postprandiale, questa spossatezza, questa cefalea, questo mal di testa che realmente ci travolge. Ecco, sono tutte cose collegate. Professor Vaira, ci sono delle persone che continuano ad assumere farmaci esatto. antiacido. Prima di salutarci, e magari non so se abbiamo tempo di rispondere anche alla domanda di Nadia che ci chiama da Venezia, vogliamo dare un'indicazione a chi autonomamente, senza consultare il medico, può prende questi farmaci, professore? Inibitori della bomba on demand, significa al bisogno. Queste sono le nuove linee guida americane che noi abbiamo sposato anche in Europa. Stiamo parlando ovviamente di reflussi saltuari, stiamo parlando di sintomatologie superficiali. Quindi cosa voglio dire? 10 mg dell'inibitore della pompa protonica, sto parlando per esempio del capostipite, che è l'omeprazolo, che costa veramente appunto denari, 4 lire, che vuol dire meno di 4 euro ed è generico, che si prende 30 minuti prima della colazione on demand, cioè al bisogno. Ma professore, ma se uno ha un bisogno abbastanza frequente, quindi continua a ricorrere ai farmaci, non sarebbe meglio di fermarsi e di andare a vedere che cosa può fare oltre a modificare la dieta? Il medico di base, vero? Assolutamente, assolutamente. Gli step sono due, quindi iniziare con uno step con questo inibitore on demand. Nel 50% di solito questi funzionano meravigliosamente, nell'altro 50% assolutamente consultare il proprio medico di famiglia. Allora adesso Nicoletta col professor Vaira ci indicheranno tutti gli esami da fare quando abbiamo il sospetto di avere questo problema e quindi è necessario approfondire. Io intanto però preparo un pochino il terreno alla seconda parte di Cuore e Denari e vi do queste cifre magiche. 20 e 26, che cosa vi dicono? Provate a risponderci all'800240024 oppure se preferite fatelo con un sms al 349-238-6666 o su Facebook o su Twitter. Vi do un piccolo indizio, queste due cifre riguardano la prossima lezione della nostra scuola di risparmio dopo le 12.10, quindi chi è più informato su questi temi, più interessato, chi legge Il Sole 24 Ore forse indovinerà più facilmente, gli altri avranno l'occasione di imparare qualcosa di nuovo e questo può tornare naturalmente sempre utile. Questa opportunità ce l'abbiamo grazie alla nostra collaborazione con il Salone del Risparmio, con cui abbiamo progettato questo percorso di avvicinamento. E mercoledì prossimo, cara la mia Nicoletta, ti porto all'Università Bocconi. Esatto, quindi tu non vieni qua direttamente, vai lì, però saremo in diretta dal Salone per 3 giorni. Allora noi abbiamo in linea Nadia da Venezia. Nadia, buongiorno. Una domanda prima di capire col professor Vaira quali sono gli esami che permettono poi di fare una diagnosi certa. Nadia. Sì, buongiorno Nicoletta, buongiorno Deborah e buongiorno al professore ovviamente. Ci dica. Allora, io soffro di reflusso gastroesofageo da circa, cioè, l'ho scoperto quando avevo circa 28 anni, adesso ne ho 46. Premetto che non sono mai stata grassa, nel senso sono alta 1,70 m e non ho mai superato i 55 kg di peso. Purtroppo l'ho sofferto fin da giovane e ho fatto più volte la gastroscopia. Volevo chiedere al professore ogni quanto bisogna farla e soprattutto siccome io ho avuto pareri veramente molto discordi, alcuni che mi dicevano sì, di dovermi molto preoccupare perché non potevo stare 4 anni senza fare una gastroscopia, in altri casi invece dottori che mi consigliavano di stare anche 4-5 anni senza fare assolutamente nessun esame. Io attualmente sto facendo un po' e un po'. Esatto, e soprattutto per quanto sto convivendo con questo, certo, con questa cosa, ma non ripeto, ecco, certo, se le indicazioni sono contrastanti si cerca poi una terza soluzione che cerca un po' di mediare. Professor Vaira, noi abbiamo 3 minuti, 2 minuti e mezzo per fare chiarezza su questo punto. Allora, innanzitutto la gastroscopia non va assolutamente fatta con questa frequenza per il reflusso gastroesofageo, a meno che ci sia un problema di esofagite o di Barrett. Quindi meno gastroscopie si fanno, specialmente per un semplice reflusso gastroesofageo, e meglio è, e non c'è nessun bisogno di ripeterlo ogni 4 anni. Ovviamente c'è bisogno di una definizione diagnostica, cioè di capire cosa c'è alla base di questo reflusso, di questa nostra sulcatrice, perché non va bene che soffra da 15 anni. Quindi questa è la prima cosa in assoluto. Sì. La seconda cosa, la diagnosi la fa al 50% il medico di base addirittura, quindi 50 persone su 100 non hanno bisogno di fare una gastroscopia, ma la gastroscopia ci si rivolge in seconda battuta. Quindi, la terza cosa fondamentale, e quindi le anticipo quelli gli esami da fare, prima di iniziare a fare una terapia, quello che ho detto poc'anzi, con inibitore della pompa, vi prego, vi supplico, vi scongiuro, fate un test non invasivo per l'elicobatter, perché è condizio sine qua non. Quindi quindi un banalissimo test sulle feci che adesso è disponibile in farmacia, un banalissimo test sul respiro che adesso è disponibile in farmacia, il test è negativo e quindi si può iniziare la terapia con l'inibitore della pompa, quei famosi 10 mg al mattino 30 minuti prima della colazione, il test è positivo, si fa prima l'eradicazione dell'helicobacter, perché 60 volte su 100 l'eradicazione, quindi la scomparsa di questo batterio, si porta dietro anche l'attenuazione o addirittura la scomparsa dello stesso reflusso gastroesofageo. Quindi, nei casi un pochino più complicati, tipo sì. Michelangelo di Messina, quello che abbiamo sentito poc'anzi, mm-hmm. in cui non si riesce a deglutire o addirittura c'è il rigurgito del materiale non digerito, è ovvio che si passa in prima battuta alla gastroscopia. Professor Vaira, grazie, chiarissimo. Mm-hmm. Quindi scovate l'helicobacter prima di muovervi, prima di trattare il reflusso gastroesofageo. E il professor Vaira tornerà, a grande mm-hmm. richiesta, a parlare dell'helicobacter. Ovvio. Io sto tossicchiando nel frattempo, non per problemi di reflusso. Le è andata solo di traverso, come si dice, la saliva. Esatto, come professor al solito. Professor Vaira, grazie per essere stato con noi. Buona giornata a voi e grazie a voi dell'ospitalità. 30 allora, lodissimo anche al professor Vaira. Assolutamente, direi che anche stralode, naturalmente. E noi ci avventuriamo, speriamo ci che avventuriamo io vorrei prendere qualche lodina anch'io alla scuola di risparmio. Ma guarda, lo sai che Gianni Lupotto è un professore che chiude un po' gli occhi qualche volta e anche un po'. Non perché son brava. No, ma è brava. È tollerante, diciamo, perché anche con chi non ne sa, lui sta lì pronto a prepararci un po' il terreno sulle prossime novità che riguardano la tassazione su risparmio. Cuore e denari. Guarda, puoi già cominciare il conto alla rovescia perché manca solo una settimana. E sai che ti dico? Che sei emozionata? Un pochino sì, perché ti ci porto per la prima volta. Io già l'ho visitato negli anni passati. Allora, mercoledì prossimo saremo in diretta dall'Università Bocconi di Milano, perché questa ospiterà la quinta. Cosa fai? Mi copi? Finisco io, cominci tu a tossire? No, ero emozionata per il Salone del Risparmio. Mi manca già il respiro. Allora, siamo alla quinta edizione del Salone. Il tema centrale di questa edizione è l'investimento di lungo termine, uno spunto ideale per noi per parlare anche di longevità, pensione e non solo. E con noi, come sempre, abbiamo deciso di aprire la nostra scuola del risparmio, la nostra rubrica risparmiosa, mm-hmm. con un punto di vista un po' originale. Il Caminetto è un ristorante a Milano Marittima dove il costo medio a testa, se mangi il pesce, è di circa 130 euro. È un investimento che anche Tanz ti telefonerebbe e ti direbbe è ad altissimo rischio. Qualunque family banker te lo dirà, sai, family banker, quello della banca, quella circolare, costruita attorno a te. Attorno, dietro di te. Però quando senti le manine sui fianchi è tardi, quindi è meglio prediligere una banca coi muri che almeno stai. Tanto non ti salvi lo stesso. Allora, abbiamo in linea con noi, sono certa che molti ascoltatori l'avranno riconosciuto, non so se pronunciarlo in lingua originale romagnola, ma non sarò mai capace. Andrea Sasdelli, in arte Giuseppe Giacobazzi. Buongiorno e benvenuto, Giuseppe, a Cuore Denari. Buongiorno a tutti, grazie per l'ospitalità. No, dici Sasdelli in romagnolo. Sasdelli. Eccolo, non sarei mai stata in grado. Senti. No, tu prova a ordinare una pizza con mio cognome per vedere se ti arriva. Allora. Senti, grande successo in TV a Zeliga, teatro con il tour, durato 2 stagioni. Anche tu hai la tosse, non sarà mica reflusso, eh? Oi. Devo prendere il Vocalen per le corde vocali. Senti, tra l'altro devi tenertele bene perché tu sei qua in scena a Milano da ieri al Teatro Nuovo e ti fermerai fino al 30 di marzo. Pensa un po'. Un sacco di serate. Quindi stai in forma, mi raccomando. Bello questo spettacolo in cui tu racconti un po' di te, del tuo privato, delle tue vicissitudini e sicuramente parlerai anche magari di banca. A tutti è capitato come di andare in banca, come abbiamo sentito nel breve estratto che abbiamo mandato in onda per aprire la nostra scuoletta del risparmio. Sì. Anche a me è capitato di entrare in banca. Io sono entrato in banca la prima volta per aprire un conto corrente, mi hanno accolto a braccia aperte. Poi sono andato anche per chiedere un mutuo e lì mi hanno fatto uscire subito. Devo essere sincero, ma guarda, non è il caso, sono tempi grami. Poi dopo invece ho trovato una banca differente e mi ha dato il mutuo. Però non è differente, ho guardato tutte le altre perché vuole i soldi della rata come tutte, quindi. E magari ne trovassimo qualcuna che invece fa una scelta diversa. Giuseppe, senti. Però, sarebbe bello che ti dicesse, ma sì, ma non si preoccupi, ma ci pensiamo la prossima volta. Paghi con calma, quando sì, vuole. Sì, non si stressi. Eccolo, senti Giuseppe, sappiamo che tu peraltro sei neopapà e noi per questo ti facciamo tante congratulazioni. Grazie. E noi tra poco andremo al Salone del Risparmio, il tema è proprio lo sguardo a lungo termine, una parola importante, un concetto importante per dire che siamo sempre più vecchi, che il nostro paese invecchia, che dobbiamo prenderci cura della nostra longevità. E allora, proprio a proposito della tua piccola Arianna, tu hai già progettato per lei un piano di risparmio? Guarda, io avevo già accantonato parte dei guadagni del mio mestiere per un piano di risparmio per mia figlia, per darle... Poi mi sono accorto che sto spendendo tutto quanto, oltre che per lei anche per me, quindi non so come farò a fare un piano di risparmio, sinceramente. Perché quando arrivano il bilancio cambia, Ragazzi, voi avete idea di cosa costano i pannolini e i giochi dei bambini? Allora, Nicoletta, un salasso. Io sono piena di nipoti, quindi indirettamente lo so anch'io. Senti, tra l'altro oggi è la festa del papà. Sì. E quindi tanti auguri. È la tua prima festa del papà. Esatto, perché l'altra volta non era consapevole, era appena nata, è nata il 4 marzo mia figlia, quindi. Ah, quindi ha un anno e appena fatto. Ha un anno e qualcosa, esatto. Adesso sarà meravigliosa, peraltro. Però un consiglino io anche di cuore ce lo possiamo dare. Certo. Perché già gli ho chiesto subito quando l'ho sentito tossire se aveva il reflusso e lui dice: oddio, adesso no, dove no, sono capitata? Era per mettermi come voi, capito? Per stare in sintonia. No, con era voi, perché eri un po'. È la tossina del nervosismo perché sei ospite di Cuore e Denari, lo posso capire. Quindi senti. Che. Vabbè, un po' di emozione, ragazzi. Certo. Senti, diretta, Radio 24, che non è propriamente l'ultima radio d'Italia. Quindi. Però io voglio dire che noi abbiamo utilizzato tante volte, abbiamo mandato in onda, ma tu non eri attento degli estratti dei tuoi interventi a Zelig. Quello che ci piace molto è quello sulle maniglie dell'amore. Allora, queste maniglie dell'amore che a me personalmente piacciono, pure comunque a me, voi uomini tendete un po' a così farle cadere giù, un po' cadere, almeno non crescere. Tu che cosa fai per queste maniglie dell'amore? Io potrei dirti qualunque cosa, potrei dirti che corro la mattina, che vado in palestra. Tanto noi non lo sapremo mai. Sì, io non ci crederei. Non lo sapreste? Ecco, brava, fai bene a non crederci, perché io più che le maniglie dell'amore sto mettendo sul maglione antipanico proprio. La ciambella di salvataggio. Le maniglie dell'amore, tu prova a pensare come sono sensuali queste. Allora, tanti auguri. Diciamo che tu, a parte che tu ormai sei a posto, sei una bambina, tu le prendi con la simpatia. Mettiamola così. Sì, sì. Io provo con la simpatia, anche perché non potrei far diverso. Vabbè. Grazie a Giuseppe Giacobazzi, a Teatro Nuovo fino al 30 di marzo qua a Milano. E potresti venire a fare un saltino anche Vieni da noi. Vieni a trovarci, radio, a prenderti no? un caffè, dai. Prenditi. Potrebbe essere una bella idea. Una mezz'ora, grazie. Grazie a Giuseppe allora Giacobazzi. Aspettiamo. E noi invece adesso andiamo a scuola. A scuola di risparmio. Niente, questo raspino continua e ci gratta la gola, un po' come si dice, ci pizzica, però noi adesso andiamo al tema di denari di oggi. Abbiamo fatto un gran parlare in questi giorni dell'attivismo di Matteo Renzi su molti fronti e lui non si è fatto mancare puntualmente l'occasione di intervenire nel mondo del risparmio, aumentando di nuovo la tassazione su quello che faticosamente tutti cerchiamo di mettere da parte. Ho lanciato questa provocazione prima della nostra pausa di mezzogiorno e ho chiesto se gli ascoltatori sapessero a che cosa corrispondevano queste due cifre che ho indicato, 20 e 26. E allora questo quiz hanno subito risposto gli ascoltatori. Sentiamo cosa ci ha detto Maria Rosa dalla provincia di Monza. Maria Rosa, buongiorno. Buongiorno e complimenti per la trasmissione. Grazie. Sentendo le due cifre mi è venuta in mente la nuova tassazione sulle rendite finanziarie, che è passata dal 20 al 26, fatta eccezione per i BOT, se non sbaglio. Maria Rosa, allora adesso non so se abbiamo pronto il nostro applauso, ma glielo facciamo noi così virtualmente. Le manderemo, se lei ha piacere, un libro della libreria di Cuore e Denari, qualcuno di benessere, naturalmente qualcuno anche sui temi finanziari. Questo è, come dire, schematicamente quello che abbiamo appreso in questi giorni. Tutto partirà dal 1 luglio, ma adesso per spiegarci nel dettaglio cosa capiterà a quanto faticosamente mettiamo da parte con il nostro duro lavoro, ritorna il professor Gianni Lupotto, che non devo chiamare professore, ma ce lo chiamiamo noi affettuosamente. Dottor Lupotto, buongiorno. Eccoci qua, buongiorno di nuovo. Tra l'altro io lo chiamo professore, dovrei chiamarlo maestro, angelo, come posso chiamarlo? Insomma, è il custode del mio portafoglio virtuale, che dice lui di dice lui, cresce come il lievito madre. Pensate un po' come mi racconta. No, ricordiamo quanto gli avevi virtualmente assegnato. Virtualmentissimo, gli avevo assegnato un bel malloppetto, 10.000 euro. Sì. E come sarebbero andati questi 10.000 euro? 10.000 euro investiti il 5 di novembre, e l'investimento finora è andato molto bene, perché i 10.000 euro sono diventati 10.200, un rendimento del 2% quindi in questi 4 mesi, che su base annua significa il 5,35%, quindi un ottimo rendimento sotto tutti i punti di vista. Certo, mica tanto. Adesso andiamo all'altro punto di vista, e infatti, che è quello della sorpresina Renzi. Brava, la sorpresina Renzi, chiamiamola così. E allora? Come verranno colpiti dalle nuove tasse questi risparmi di Nicoletta Carbone, Lupotto? Beh, questa nuova tassa che entrerebbe in vigore il 1 luglio sporta dal 20 al 26% la tassa sulle rendite finanziarie, sia sulle cedole e sui dividendi, sia sugli apprezzamenti. Nel caso di portafoglio di Nicoletta, che è formato prevalentemente da strumenti a cedola, quindi le cedole verrebbero colpite. In particolare, per esempio, il portafoglio ha già maturato, ha già pagato circa 100 euro di cedole, che al 20% significano 20 euro di tasse. Se con la nuova tassazione questi 20 euro diventerebbero 26, chiaramente. Per introdurre la prossima domanda, direi che approfitto del quesito e dell'osservazione che vuole fare all'800240024 Margherita dalla provincia di Milano. Tante donne, vedi, non solo sono più esposte al reflusso, ma anche molto interessate alle tematiche di risparmio e alla nuova tassazione che graverà su questo. Margherita, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Benvenuta. A voi. No, io ho il dente avvelenato, perché se questa cosa passa la trovo molto discriminante rispetto ai titoli di Stato. Perché questi rimangono tassati al 12,5% nella rendita, nell'apprezzamento, come lo chiama Gianni Lupotto, e quindi questo le fa proprio venire la mosca al naso, come si dice, perché Margherita. Uno perché deve essere libero di fare gli investimenti che meglio crede. E allora, e lei pensi io che... sono pensionata, mi sono creata il mio giardinetto, come dico io, ho sempre pagato le tasse su tutto e più di tutto. Dico, continuano a colpire i pensionati o il ceto medio? Allora lei, Margherita, un po' si sente come quella... te la ricordi, Nicoletta? La vecchietta? Esatto, adesso Margherita non sarà così perché non è vecchina. Però è pensionata, quindi sicuramente poi noi è una persona che ha lavorato di tanto, diventare vecchi. Esatto, ecco. Con la pensione senza tante tasse intorno. Però è un po' il profilo che ha identificato Graziano Del Rio, no? Gianni Lupotto, che ne pensa? E lei che ne pensa anche come consulente di questa che chiamano gli ascoltatori discriminazione tra i diversi strumenti finanziari? È effettivamente un'anomalia, perché una differenza fra il 12,50 e il 26% è una differenza di più del doppio, e quindi è notevole e provoca certamente delle distorsioni. La principale da temere per il risparmiatore è quella di tendere a concentrare tutti gli investimenti sui prodotti a minore tassazione. E noi predichiamo da sempre la diversificazione, chiaramente questo non è un bene. Diciamo che adesso saranno spinti ancora di più a farlo, direi, no? Esatto, a questo proposito però va detta una cosa, va precisata una cosa per i nostri ascoltatori, che la tassazione al 12,50 vale per tutti i titoli di Stato, non solo quelli di Stato italiano. Certo. Quindi per tutti. Se uno vuole prendere il Bund tedesco, o il titolo il spagnolo, bonus spagnolo, spagnolo certo. O lo AT francese, o anche di nazioni purché appartenenti alla lista cosiddetta white list, sono 78 i paesi che appartengono a questa lista, la tassazione è comunque contenuta al 12,50. Ma Lupotto, se questi ma senti come lo tiene sulla sai che già ieri Lupotto mi ha dato della perentoria, perché gli ho detto facciamo questa scaletta così, perché anche il ditino sì, tiro su. No, ma se questi titoli di Stato, Lupotto, sono contenuti in un fondo di investimento e quindi compongono uno strumento finanziario diverso dal singolo titolo di Stato, quale tassazione abbiamo su questo? in questo caso la tassazione viene mantenuta. Se nel fondo di investimento, facciamo un esempio, sono presenti al 50% titoli di Stato e al 50% altri strumenti obbligazionari o di altro tipo, nel momento in cui diciamo l'investitore va a disinvestire, la tassazione verrà applicata in modo proporzionale a seconda della quota di titoli di Stato detenuta dal fondo stesso. Quindi c'è una tassazione mediata, se ho capito. Vogliamo dire. Sentiremo un po' dei nostri ascoltatori che si stanno accomodando alla scuola del risparmio. Enrico dalla provincia di Lucca e Lorenzo dalla provincia di Vicenza. Partiamo da Lucca, poi saliamo. Enrico. Sì, buongiorno. Io volevo farle questa domanda. Sui conti correnti e eventualmente sui conti di deposito, sono esentati da questo aumento dell'imposto dal 20 al 26? Perché in un primo momento sembrava che fossero interessati, poi c'è stata una smentita da parte del ministro. Io volevo sapere come stanno le cose. Allora, il conto corrente è una cosa, il conto di deposito è un'altra, e questo da qualche anno Lupotto, quest'ultimo, è assimilato ad un prodotto di investimento, per cui ha subito tutte le novità sulla tassazione recenti, intervenute prima di questa del 26%. Esattamente, il conto corrente ha una tassazione fissa di 34 euro all'anno. Che è l'imposta di bollo che paghiamo tutti quanti. Il conto deposito ha un'imposta di bollo pari al 2 per mille delle somme depositate. In entrambi i casi, qualora il conto deposito e il conto corrente siano produttivi di interessi, gli interessi sono tassati al 20% oggi, e si pare, a quanto sappiamo finora, che questo 20% rimarrà invariato. Allora, prima di sentire Lorenzo dalla provincia di Vicenza, a cui chiedo solo un istante di pazienza, vorrei fare un microscopico focus, se ce la facciamo Lupotto, su quelli che investono in azioni, perché mi pare di capire che siano quelli più bersagliati dalle tasse. Abbiamo la tassazione ordinaria sulle plusvalenze, che è quella che diventa il 26%. La mini patrimonialina dal 2 per mille decisa da Monti nel decreto Salva Italia. C'è anche la Tobin Tax, che scomodiamo molto poco frequentemente, ma c'è anche questa. Quindi complessivamente chi compra un titolo in borsa quanto va a pagare? Va a pagare parecchio, perché c'è questo 2 per 1000 che copre, che abbiamo detto come mini patrimoniale, il controvalore depositato. La Tobin Tax vale lo 0,1% qualora l'acquisto dell'azione venga fatta su un mercato regolamentato, e copre il momento dell'acquisto, colpisce il momento dell'acquisto. Quindi sostanzialmente il povero azionista viene colpito nel momento dell'acquisto con la Tobin Tax, nel momento della detenzione con la mini patrimoniale, nel momento dello stacco dividendo con il 26% sui dividendi, e nel momento della vendita con la tassa sulla... Questo tanto... Per chiarire a chi diceva che noi avevamo la tassazione sul risparmio più bassa d'Europa, sappiate che senza colpo ferire è diventata la più alta, perché superiamo mediamente il 40% di tassazione sui guadagni. Non ci vogliamo far mancare nulla, il reflusso sicuramente arriva con tutto questo. Ma io vorrei meritarmi almeno, non dico una lode, ma almeno un 8,5. Un 8,5, 9. Vorrei chiedere, senta maestro Lupotto, che domandina ho preparato per lei. Un altro prodotto di investimento di cui sono pieni i portafogli degli italiani sono le obbligazioni bancarie. Allora, vedo Laura Vanossi dietro in regia che trema, perché dice: che cosa mi racconterà? Stai lì. Se quest'anno, ad esempio, io ho investito 10.000 euro in una obbligazione della banca Rossi, Verde, quello che vuole lei, che cosa succederà a luglio? A luglio succede questo, l'obbligazione paga una cedola, quindi la cedola matura un rateo di interessi, quindi al 30 di giugno verrebbe calcolata la tassazione al 20% sul rateo maturato al 30 giugno, e dal giorno dopo partirebbe la tassazione al 26. Questo vuol dire che nel momento in cui la prima cedola verrà staccata, su questa prima cedola si applicherà una tassazione media tra il 20 e il 26. Sulle cedole successive la tassazione sarà completamente al 26%. Guarda, qua sono dei veri rompicapi, per definirli in maniera generosa. Mi è venuto. Allora, praticamente la domanda di Lorenzo la sintetizzo io, perché stiamo salutando. No, forse ce la fa. Se Lorenzo la fa in 10 secondi, lo accontentiamo. Lorenzo. Sì, allora la farò così. In caso di buongiorno a tutti, scusate. Certo, in caso buongiorno di estinzione, a lei. In caso di estinzione del dossier titoli. Sì. Il cui valore è zero, perché il mese precedente avevo trasferito tutto ad altra banca, mi è stata applicata per due dodicesimi, perché l'ho estinto il 5 di febbraio, quindi due dodicesimi per la pro quota, si dice. Euro 20. È corretto meno? Lorenzo, grazie. Lupotto, lei che dice? La banca? Sì, è un'azione corretta, perché poi i restanti dodicesimi verranno della mini patrimoniale, verranno applicati, certo, dalla banca destinataria. E quindi, Lorenzo, qua non c'è niente da fare. Come possono, pizzicano. E qua un nostro ascoltatore ci scrive che metterà i risparmi sotto il materasso. Ecco, allora, però, per chi invece li tiene negli intermediari finanziari, come fanno molte famiglie, se avete altri quesiti, scriveteci, perché noi tormenteremo Gianni Lupotto con tutte le vostre domande. Lui, come sempre, risponderà a tutti. Intanto noi siamo pronti a partire, andiamo a prendere la valigia e domani siamo in diretta da Bari, vi aspettiamo. Esatto, per chi è lì prenotatevi se volete, perché potete intervenire in diretta da Italy. Da Italy, fantastico. Domani. Buongiorno dottor Lupotto, grazie.